Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Beh, che cosa potreste immaginare di più intelligente di una città senza zanzare? Beh, insomma, questi antipaticissimi animaletti che ci costringono certe volte di notte in abiti improbabili a inseguirli con la ciabatta perché ci lascino in pace, diventano in qualche caso veramente una tortura. Però, insomma, qualche idea nuova su come si possa combatterle c'è. Sentite, ve ne parla Chiara Albicocco. Una trovata veramente smart per le città del futuro sarebbe l'eliminazione di quegli insetti fastidiosi che ci rubano il sonno nelle notti estive. Sto parlando delle zanzare. Cominciamo ad attrezzarci perché in realtà qualche soluzione del tutto green e naturale esiste. Alcuni entomologi, che sono gli scienziati che studiano gli insetti, hanno messo a punto un metodo ecologico. Hanno inventato il balcone antizanzare. Di che si tratta? Ce lo racconta Gianumberto Acinelli, che è ideatore di Eugea, lo spin-off dell'Università di Bologna che ha messo a punto questo kit. Buonasera Acinelli. Buonasera, buonasera. Ecco, ci spieghi bene di che cosa si tratta, che cosa proponete per abbattere le zanzare? Proponiamo una tecnica di lotta biologica classica, cioè un organismo che si nutre delle zanzare, in questo caso delle larve di zanzare. Abbiamo scoperto che esistono in natura, proprio qui da noi, a livello autoctono, dei piccoli crostacei che si chiamano copepodi, che sono dei formidabili predatori di larve di zanzare. Quindi li abbiamo allevati in un grande laboratorio e li commercializziamo per i cittadini. Il cittadino riceve una scatoletta contenente dell'acqua e questi microcrostacei, diciamo dei piccoli gamberetti, che sono dei predatori estremamente voraci delle larve e anche delle uova. In questo caso siamo stati molto fortunati perché sapete che la zanzara tigre è un animale esotico e normalmente il nuovo rapporto tra preda e predatore è sbilanciato a favore della preda o a favore del predatore. In questo caso sono stati fortunati perché è sbilanciata a favore del predatore, quindi questo nostro così animale autoctono va matto per la zanzara tigre. Diciamo che gli piace molto la cucina etnica, ecco. Ecco, sì. Scusi, ma io che abito in città, come faccio ad avere questo copepode, questo piccolo crostaceo nel mio balcone? Questo kit che contiene 300 copepodi vanno versati, fondamentalmente dell'acqua con questi piccoli animaletti che sono strettamente acquatici, vanno versati o nelle cisterne d'acqua oppure dove le persone tengono dell'acqua, oppure si può fare un'altra tecnica, cioè ogni cittadino mette sul balcone una piccola bacinella d'acqua, versa i copepodi e le zanzare tigre andranno a deporre proprio in queste piccole riserve d'acqua. Quindi sul mio balcone metto un annaffiatoio con dell'acqua, ci versa i copepodi e le larve che sgusceranno dalle uova verranno immediatamente predate da questi copepodi. Se lo facessimo in tanti, ebbene faremmo una sorta di cattura massale di queste zanzare e quindi il livello di popolazione diminuirebbe. È da dire che la zanzara tigre trova tantissimi microabita, queste non è la soluzione, sì. Non è la soluzione, non è l'ultima parola purtroppo contro la zanzara tigre. La lotta alla zanzara tigre deve essere una lotta integrata, quindi sia ai cittadini sia al comune. Certo, le amministrazioni, chiarissimo. Assolutamente. Ma l'acqua poi che viene, diciamo, abitata da questi copepodi è nociva o si può utilizzare ad esempio per innaffiare i pomodori o quant'altro? Sì, assolutamente. Si possono innaffiare. I copepodi sono degli animali che si trovano normalmente anche in natura, in fossi, piccoli stagni, quindi è un'acqua assolutamente, cioè non è inquinata. Ecco. Non bevetela, ecco. Voi di Eugea in realtà vi occupate di un progetto ancora più ampio che si pone appunto l'obiettivo di, come dire, molto integerrimo, di riportare la biodiversità in città, a partire appunto dagli insetti, forse quelli un po' più simpatici, non so, le farfalle, sì, piuttosto che le coccinelle ad esempio, ma anche i fiori, alcuni tipi di piante che purtroppo in città stanno sparendo. Ecco, che cosa proponete? Sì, noi cerchiamo di collegare le zone naturali limitrofe alla città con la città, cerchiamo di far entrare la natura attraverso dei corridoi nelle nostre strade cittadine, attraverso una tecnica di ecologia applicata che si chiama hotspot di biodiversità. Lei intende delle scatoline in cui ci sono dei semi fiori o di piante ecco, che attirano, adatte alla vita delle farfalle oppure gli insetti utili. Volevo solo ricordare che tutte le nostre produzioni sono fatte a mano da ragazzi di cooperative sociali, quindi c'è anche un aspetto sociale importante del nostro progetto. Bene, torniamo in studio perché vi voglio fare una segnalazione. Questa mattina, sentendo il lancio della trasmissione, ci ha contattato Sergio Urizio, che è presidente dell'Associazione Italiana Disinfestatori, un po' allarmato forse per un mio, come dire, eccessivo entusiasmo nel presentare questa curiosa, divertente iniziativa dei ricercatori di Bologna, ma quello che è venuto fuori, insomma, che anche l'Associazione Nazionale Disinfestatori sta facendo un sacco di lavoro per cercare di mettere a punto dei metodi di lotta sempre più sofisticati e sempre più ambientalmente sostenibili a questi animaletti che ci rendono difficile la vita, per cui torneremo certamente su questo tema. Buona serata per intanto.